voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Seconda puntata. Paesano, basso e tarchiato, con una folta barba bruna. Era smontato di cavallo e salutava i nonni ancora seduti davanti alla porta. «Stanno bene, che Sant'Anna li conservi!» «Benissimo», rispose Don Simone. «Non vedi che sembriamo due giovincelli di primo pelo? E Paolo? Paolo dov'è?» «Paolo tornerà forse domani mattina. È andato a Nuoro per affari.» «Donna Rachele, come sta?» «Annes, sei tu», disse l'ospite entrando nel cortile e tirandosi dietro il cavallo. «Come, non hai ancora preso marito? Dove leghiamo il cavallo? Qui, sotto la tettoia?» «Sì, fa da te», rispose donna Rachele. «Fai il tuo comodo come se fossi in casa tua. Lega il cavallo qui sotto la tettoia perché la stalla è ingombra di sacchi di paglia.» Annessa provò quasi gusto al sentir donna Rachele mentire. «Sì», pensò con amarezza, «la festa non è bella senza ospiti. Ma intanto anche i santi devono dire qualche bugia, perché il tetto della stalla è rovinato e non si trovano i soldi per accomodarlo.» «Le tue sorelle stanno bene?» domandò poi donna Rachele, aiutando l'ospite a legare il cavallo. «E la tua mamma?» «Tutti bene, tutte fresche come rose», esclamò l'uomo traendo un cestino dalla bisaccia. «Ecco, questo appunto lo manda mia madre.» «Oh, non occorreva disturbarvi», disse la dama prendendo il cestino, e rientrò nella cucina seguita dall'ospite, mentre Annessa, triste e beffarda, si piegava davanti al fuoco e batteva leggermente un uovo sulla pietra che serviva da focolare. Rosa scese pesantemente dal carro e rientrò anche lei, curiosa di sapere cosa c'era dentro il cestino. Nella camera del vecchio asmatico, che serviva anche da sala da pranzo, la tavola era apparecchiata per quattro. Donna Rachele mise un'altra posata e l'ospite si avvicinò a zio Zua. «Come va, come va?» gli domandò guardandolo curiosamente. Il vecchio ansava e con una mano si palpava il petto, sul quale teneva, appeso ad un cordoncino unto, una medaglia al valor militare. «Male, male», rispose guardando fisso l'ospite che non aveva subito riconosciuto. «Ah, ma sei tu, ballore spano, ti riconosco benissimo adesso. E le tue sorelle hanno preso marito?» «Finora no», rispose l'uomo un po' seccato per questa domanda. In quel momento i due nonni rientrarono, trascinandosi dietro le sedie, e si misero a tavola assieme con l'ospite, donna Rachele e la bimba. «Questa è la figlia di Paolo?» domandò l'uomo guardando Rosa. «A questa sola bambina non pensa a riprendere moglie?» «No», rispose donna Rachele con un sorriso triste. «È stato troppo sfortunato la prima volta. Per ora non pensa affatto al matrimonio. Sì, questa è la sua unica bambina. Ma serviti, ballore, tu non mangi niente. Prendi questa trotta, vedi questa?» «E il vostro parroco, quel vecchio prete che una volta subì una grassazione, è vivo ancora?» domandò zio Cosimo. «Altro se vive, è vegeto anche.» Mentre così chiacchieravano, si sentì picchiare al portone. «Deve essere un altro ospite», disse donna Rachele. «Ho sentito il passo di un cavallo.» «È forse Babai», gridò Rosa, e scese dalla sedia e corse a vedere. Un altro ospite parlamentava con Annessa davanti al portone. Era un uomo scarno e nero, miseramente vestito. La donna non lo conosceva e lo guardava con evidente ostilità. «È questa la casa di Don Simone de Cherchi?» diceva l'ospite. «Io sono di Arizzu. Mi chiamo Melchior Rubino e sono figlioccio di Pasquale Sole, grande amico di Don Simone. Il mio padrino mi ha dato una lettera per il suo amico.» «L'osteria è aperta», borbottò Annessa. Mandò ad avvertire Don Simone che il figlioccio del suo amico domandava ospitalità. Il vecchio nobile, per tutta risposta, ordinò di mettere un'altra posata a tavola. Ma il nuovo ospite volle restare in cucina e appena Annessa gli mise davanti un canestro con pane e formaggio lardo, cominciò a mangiare con avidità. Doveva essere molto povero. Era vestito quasi miseramente e i suoi grandi occhi tristi parevano gli occhi stanchi di un malato. Annessa lo guardava e sentiva cadere il suo dispetto. Dopotutto, poiché i De Cherchi si ostinavano ad aprire la loro casa a tutti, meglio dar da mangiare ai poveri che ai ricchi scrocconi come quel ballore Spanu. Ecco, mangia questa trota, disse offrendogli una parte della sua cena. Adesso ti darò anche da bere. Dio te lo paghi, sorella mia, egli rispose sempre mangiando. Sei venuto per la festa? Sì, sono venuto per vendere sproni e briglie. Annessa gli versò da bere. Dio te lo paghi, sorella mia. Egli bevette, la guardò e parve vederla solo allora. I capelli di lei, soprattutto, attirarono i suoi sguardi. Sei la serva tu? Domandò. Sì, ma sei del paese tu? Mi pare di no. Infatti non lo sono. Sei forestiera? Sì, sono forestiera. E di dove sei? Di un paese, del mondo. Ella andò nella camera attigua. Poi uscì nel cortile, rientrò. L'ospite povero approfittò dell'assenza di lei per versarsi un altro bicchiere di vino e diventò allegro, quasi insolente. «Sei fidanzata?» chiese la donna quando essa tornò. «Se no, guarda, se ti convengo, sono venuto per vendere sproni e briglie e per cercarmi una sposa». Ma questo scherzo non garbò ad Annessa, che ridiventò triste e beffarda. Puoi mettere una delle tue briglie al collo di qualche donna e così trascinartela dietro fino al tuo paese. No, davvero, insisté l'altro. Fammi sapere se hai o no il fidanzato. Dal modo aspro con cui mi parli parrebbe di no, oppure è molto brutto. E invece ti inganni, fratello caro. Il mio sposo è molto più bello di te. E fammelo conoscere, perché no? Aspetta. Ella rientrò nella sala da pranzo e dopo le trotte servì le uova fritte con cipolle e in ultimo una focaccia di pasta e formaggio fresco. Non aspettavamo ospiti, si scusava donna Rachele rivolgendosi con evidente umiliazione a Ballore Spanu. Perdona dunque, Ballore, se ti trattiamo male. Voi mi trattate come un principe, rispondeva l'ospite e mangiava e beveva allegramente. Anche i due nonni scherzavano. Don Simone era, o sembrava, lieto e sereno come Ballore l'aveva sempre conosciuto. Nel riso di zio Cosimo strideva invece qualche nota triste e anche il vecchio asmatico che masticava lentamente la polpa rosea ad una trota prendeva parte alla conversazione e sogghignava quando l'ospite parlava di Paolo. Non c'è che dire, avevamo due testoline sventate, io e suo figlio, donna Rachele, diceva Ballore Spanu. Ricordo una volta Paolo venne a trovarmi al mio paese ed entrambi partimmo assieme per un mese. Le nostre famiglie non seppero più nulla di noi. Andammo di festa in festa, di villaggio in villaggio, sempre a cavallo. Che teste, Dio mio, come si è pazzi in gioventù! «Buone lane!» mormorò l'asmatico. «Ricordo!» disse donna Rachele. «E che tormento! Credevamo vi avessero arrestati!» «Perché arrestati?» gridò l'ospite quasi offeso. «Questo poi no! Eravamo due teste matte, sì, ma due galantuomini. Questo possiamo dirlo ben forte. Però bisogna confessarlo, abbiamo sprecato molti denari!» «Perciò!» cominciò il vecchio asmatico con la sua voce dispettosa. Ma Annessa gli porse da bere e lo guardò fisso ed egli non osò proseguire. D'altronde Ballore Spanu sapeva bene che le pazzie giovanili di Paolo avevano finito di rovinare la famiglia. Non occorreva ripeterlo. Un'ombra passò sul viso cerio di donna Rachele e zio Cosimo disse: Paolo è buono, buono come il pane, ma è stato sempre un giovane troppo allegro e spregiudicato. Egli non ha mai avuto timore di Dio, si è sempre divertito, ha goduto la vita in tutti i modi. Si vede che non era destinato a farsi frate, esclamò l'ospite. E poi bisogna godere finché si è giovani. Scusa, io godo anche ora che son vecchio, osservò Don Simone con accento beffardo. Egli non amava si parlasse male del nipote con gli estranei e cercò di cambiare discorso. Suo de che? Esclamò rivolgendosi all'infermo. Non è vero che i giovani devono essere più saggi dei vecchi? Il vecchio ansò forte, cercò di sollevarsi, gridò irritato. La gioventù, io sono stato giovane, ma sono stato sempre serio. In Crimea ho conosciuto un capitano francese che mi diceva sempre: voi avete 100 anni, Sardignolo, la Marmora, dopo la battaglia. E un colpo di tosse non lo lasciò proseguire. Donna Rachele gli andò vicino, gli sollevò il capo, gli accennò di calmarsi. Figlio di Sant'Antonio, disse zio Cosimo, sollevando le mani, ma perché arrabbiarti così? Vedi che ti fa male. Ma l'asmatico si ostinava a parlare e non poteva, e solo qualche parola si distingueva fra i suoi gemiti sibillanti. Io, Vittorio Emanuele, la medaglia, balaclava, ho lavorato sempre io, mentre gli altri, Annessa, andava e veniva. Era diventata pallidissima e guardava il vecchio con uno sguardo di odio, ma stringeva le labbra per non gridare contro di lui. Invano l'ospite povero, quando ella rientrava in cucina, cercava di scherzare e di farla chiacchierare. Ella taceva. D'un tratto uscì nel cortile e stette parecchio tempo fuori. Egli allora si versò un altro bicchiere di vino e si guardò attorno, cercando una stuoia su cui potersi coricare. Poi gli parve di sentire Annessa parlare con un uomo nel cortile e tese l'orecchio. «Egli sparla di Don Paolo», diceva la donna, «e gli altri lo lasciano dire. Se potessi lo butterei giù dal letto». «Ma lascialo dire», rispose una voce d'uomo, «chi non vede che egli è rimbambito?» Poi le voci tacquero. L'ospite credette di sentire lo scoccar di un bacio e fremette, pensando alla bella bocca di Annessa. Un giovane servo, coi capelli neri divisi sulla fronte, il viso imberbe, gli occhi dolci, entrò in cucina. «Salute l'ospite!» disse e sedette davanti al canestro delle vivande. «Salute abbi!» rispose l'altro guardandolo maliziosamente. «Sei il servo, tu?» «Sì, sono il servo. Annessa, mi darai da mangiare?» «Sono tornato tardi perché sono stata a vedere i fuochi artificiali. Che cosa bella! Pareva che tutte le stelle del cielo cadessero giù sulla terra. Fossero state almeno buone da mangiare». E rideva come un fanciullo, socchiudendo i begli occhi castani e mostrando due fila di denti minuti e bianchissimi. Ma Annessa era di cattivo umore. Gli porse da mangiare e tornò fuori. «Che ragazza seria», disse l'ospite seguendola con gli occhi. «Bella, ma seria. Oh, è inutile che tu la guardi», esclamò il servo, che era molto brillo. «Non fa per te». «Lo so, è la tua fidanzata». «E come lo sai?» «Me l'ha detto lei e ho sentito che vi baciavate». «Ah, te lo ha detto lei», riprese il servo con gioia. «È vero, siamo fidanzati. Io e lei qui siamo più che servi, figli di famiglia. Annessa, anzi, è figlia d'anima della famiglia De Cherchi». E siccome l'ospite povero si interessava vivamente alle sue chiacchiere, proseguì con boria. «Devi sapere che Don Simone è stato quasi sempre sindaco di questo paese. Non si contano le opere buone che ha fatto. Tutti i poveri potevano dirsi suoi figli, tanto egli li soccorreva e li amava. Ora, avvenne che molti anni fa, io allora non masticavo ancora il pane, capitò alla festa un vecchio mendicante accompagnato da una bambina di 3 anni. Un bel momento, quest'uomo fu trovato morto dietro la chiesa. La bambina piangeva, ma non sapeva dire chi era. Allora Don Simone la prese con sé, la portò qui, la fece allevare in famiglia. Molti dicono che Annessa è continentale. Altri credono che il vecchio mendicante l'abbia rubata. L'ospite ascoltava con curiosità, ma le ultime parole del servo lo fecero sorridere. «Oh, chissà, ella forse è figlia del re?» disse beffardo. «Sta zitto», pregò allora il servo. «I miei 3 vecchi padroni sono chiamati i 3 re. Perché? Così, perché sono 3 e sono vecchi. Ce n'è uno malato. È il fratello di Don Simone? No, protestò il servo, sporgendo le labbra con disprezzo. È un parente. È un uomo che è stato alla guerra e ha tanti danari, ma avaro, vidi? Muore così, coi pugni stretti. Sta qui da 2 anni ed ha fatto testamento in favore di Rosa, la figlia di Don Paolo. Don Paolo è figlio di Don Simone? No, è suo nipote. È figlio di Don Priamo, che è morto. I tuoi padroni sono molto ricchi, vero? Sì, mentì il servo, sono ancora ricchi. Prima lo erano molto di più. Ma in quel momento rientrò Annessa e il giovane chiacchierone cambiò discorso. Anna, costui non vuol credere che l'anno 21 noi due ci sposeremo. Non è vero che siamo cresciuti insieme in questa casa come parenti? E allora beviamo la vostra buona fortuna, disse l'ospite, e bevette un po' di vino rimasto nel suo bicchiere. Tu ci porterai un'altra bottiglia, Annessa? Sì, sì, va, supplicò il servo, tendendo alla donna la bottiglia vuota. Ma Annessa gli voltò le spalle e volle rientrare nella stanza dove i vecchi padroni e l'ospite ricco chiacchieravano e ridevano. Ma mentre ella scendeva lo scalino dell'uscio, un passo cadenzato di cavallo risuonò nella straducola deserta. Ella si fermò, ascoltando. Poi disse, rivolta al servo, «Cantine, è Don Paolo», e attraversò di corsa la cucina, dimenticandosi persino di deporre un piatto che teneva in mano. Poco dopo entrò in cucina un uomo, ancora giovane, alto, svelto, tutto vestito di nero, da borghese, col cappello duro. Cantine balzò in piedi. «No», gli disse Paolo, dopo aver salutato l'ospite con un cenno del capo, «non levar la sella al cavallo, che è tutto sudato». Lascialo un momento respirare, lo porti poi da zio Castigu e domani mattina all'alba conducilo al pascolo. E mise un piede su uno sgabello per levarsi lo sprone. L'ospite povero guardava con curiosità e gli pareva che servo e padrone si rassomigliassero. Lo stesso viso bruno, gli stessi occhi lunghi e dolci, la stessa bocca dai labbri sporgenti, se non che Paolo sopravanzava di tutta la testa il servo e aveva un'aria triste e preoccupata, mentre Cantine sembrava allegro e spensierato, e la bocca del giovine servo era rossa e sorridente, mentre le labbra di Paolo erano pallide, quasi grigie. «Sì», pensava il venditore di briglie, «adesso ricordo». Il mio padrino, Pasquale Sole, mi diceva un giorno che i De Cherchi avevano preso in casa come servo il figlio illegittimo d'uno di essi. Don Paolo e Cantine devono essere fratelli. Ecco, disse il vedovo porgendo lo sprone a Cantine, attaccalo al muro. Ed entrò nella camera attigua, dove l'ospite ricco lo accolse con un'esclamazione di gioia. Paolo gli strinse la mano e parve rallegrarsi nel rivedere il suo antico compagno di avventure. Ma donna Rachele e i nonni guardarono il vedovo e si accorsero subito che egli non recava buone notizie.